192. Fritto di Kiefels. È un fritto di poco conto, ma per contorno un fritto di carne può servire da pane. Kiefels numero 2. Latte decilitri 2. Zucchero grammi 20. Levate le punte ai Kiefels e tagliateli a rotelline grosse un centimetro che collocherete sopra un vassoio. Ponete il latte al fuoco col detto zucchero e quando sarà a bollore, versatelo sulle medesime per insupparle non molto. Diace che siano, bagnatele in 2 uova frullate, panatele e friggetele. Per signore facili accontentarsi, possono servire come piatto dolce se date loro l'odore della vaniglia spolverizzandole, dopo cotte, di zucchero a velo. 193. Amaretti fritti. Prendete 20 amaretti piccoli, bagnateli leggermente, onde non rammolliscano troppo, di rum o di cognac, e involtateli nella pastella del numero 156, che è dose bastante, e friggeteli nello strutto, nel burro o nell'olio. Spolverizzateli leggermente di zucchero a velo e serviteli caldi. Non è fritto da fargli le furie e da andarlo a cercare, ma può servire di compenso quando capiti il caso.